www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Di quell'epoca io non posso dire molto, perché rimonta da allora il mio primo viaggio per l'Europa. Avevo compiuto i 21 anni e potevo godere del patrimonio familiare come meglio m'aggradiva, perché a mio fratello bastava poco e non di più bastava nostra madre, che poverina era andata negli ultimi tempi molto invecchiando. Mio fratello voleva firmarmi una carta d'usufruttario di tutti i beni, purché gli passassi un mensile, gli pagassi le tasse e tenessi un po' in ordine gli affari. Non avevo che da prendermi la direzione dei poderi, scegliermi una sposa, e già mi vedevo davanti quella vita regolata e pacifica che, nonostante i gran trambusti del trapasso di secolo, mi riuscì di vivere davvero. Però prima di cominciare mi concessi un periodo di viaggi. Fui anche a Parigi, proprio in tempo per vedere le trionfali accoglienze tributate al Voltaire, che vi tornava dopo molti anni per la rappresentazione di una sua tragedia. Ma queste non sono le memorie della mia vita, che non meriterebbero certo d'essere scritte. Volevo solo dire come in tutto questo viaggio fui colpito dalla fama che si era sparsa dell'uomo rampicante d'ombrosa, anche nelle nazioni straniere. Perfino su di un almanacco vidi una figura con sottoscritto «L'homme sauvage d'ombreuse», «République genoise, vit seulement sous les arbres». L'avevano rappresentato come un essere tutto ricoperto di lanugine, con una lunga barba ed una lunga coda, e mangiava una locusta. Questa figura era nel capitolo dei mostri, tra l'ermafrodito e la sirena. Di fronte a fantasie di questo genere, io di solito mi guardavo bene dal rivelare che l'uomo selvatico era mio fratello. Ma lo proclamai ben forte quando a Parigi fu invitato a un ricevimento in onore di Voltaire. Il vecchio filosofo se ne stava sulla sua poltrona, coccolato da uno stolo di madame, allegro come una Pasqua e maligno come un istrice. Quando seppe che venivo da Ombrosa, m'apostrofò: «C'est chez vous, mon cher chevalier, qu'il y a ce fameux philosophe qui vit sur les arbres comme un singe?» E io, lusingato, non potei trattenermi da rispondergli: «C'est mon frère, monsieur, le baron de Rondeau». Voltaire fu molto sorpreso, forse anche perché il fratello di quel fenomeno appariva persona così normale, e si mise a farmi domande come: «Mais c'est pour approcher du ciel que votre frère reste là-haut?» «Mio fratello sostiene», risposi, «che chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria», e il Voltaire apprezzò molto la risposta. «Jadis, c'était seulement la nature qui crée des phénomènes vivants», concluse. «Maintenant, c'est la raison». E il vecchio sapiente si rituffò nel chiacchiericcio delle sue pinzocchere teiste. Presto dovetti interrompere il viaggio e ritornare a Ombrosa, richiamato da un dispaccio urgente. L'asma di nostra madre s'era improvvisamente aggravata e la poverina non lasciava più il letto. Quando varcai il cancello e alzai gli occhi verso la nostra villa, ero sicuro che l'avrei visto lì. Cosimo era arrampicato su un alto ramo di gelso, appena fuori del davanzale di nostra madre. «Cosimo!» lo chiamai, ma a voce smorzata. Mi fece un cenno che voleva dire tutti insieme che la mamma era un po' sollevata, ma era sempre grave, e che salissi ma facessi piano. La stanza era in penombra. La mamma, in letto, con una pila di guanciali che le tenevano sollevate le spalle, sembrava più grande di quanto non avessimo mai vista. Intorno c'erano poche donne di casa. Battista non era ancora arrivata perché il conte suo marito, che doveva accompagnarla, era stato trattenuto per la vendemmia. Nell'ombra della stanza spiccava la finestra aperta che inquadrava Cosimo, fermo sul ramo dell'albero. Mi chinai a baciare la mano di nostra madre. Mi riconobbe subito e mi posò la mano sul capo. «Oh, sei arrivato, Biagio!» Parlava con un filo di voce, quando l'asma non le stringeva troppo il petto, ma correntemente, con gran senno. Quello che mi colpì, però, fu il sentirla rivolgersi indifferentemente a me come a Cosimo, quasi fosse anch'egli lì al capezzale. E Cosimo dall'albero le rispondeva: «È tanto che ho preso la medicina, Cosimo?» «No, sono solo pochi minuti, mamma. Aspettate a riprenderne, che ora non vi può fare bene». A un certo punto ella disse: «Cosimo, dammi uno spicchio d'arancia. E io mi sentii stranito. Ma più ancora stupii quando vidi che Cosimo allungava nella camera attraverso la finestra una specie d'arpione da barche e con quello prendeva uno spicchio d'arancia da una console e lo porgeva in mano a nostra madre. Notai che per tutte queste piccole cose ella preferiva rivolgersi a lui. «Cosimo, dammi lo scialle». E lui con l'arpione cercava tra la roba buttata sulla poltrona, sollevava lo scialle, lo porgeva a lei. «Eccolo, mamma». «Grazie, figlio mio». Sempre gli parlava come fosse a un passo di distanza, ma notai che non gli chiedeva mai cose che lui non arrivasse a fare dall'albero. In quei casi chiedeva sempre a me o alle donne. Di notte la mamma non s'assopiva. Cosimo restava a vegliarla sull'albero, con una lucernetta appesa al ramo perché lo vedesse anche nel buio. Al mattino era il momento più brutto per l'asma. L'unico rimedio era cercare di distrarla, e Cosimo, con uno zufolo, suonava delle ariette, o imitava il canto degli uccelli, o acchiappava farfalle e poi le faceva volare nella camera, o dispiegava dei festoni di fiori di glicine. Ci fu una giornata di sole. Cosimo, con una ciotola sull'albero, si mise a fare bolle di sapone e le soffiava dentro la finestra verso il letto della malata. La mamma vedeva quei colori dell'iride volare e riempire la stanza e diceva: «Oh, che giochi fate!» Che pareva quando eravamo bambini, e disapprovava sempre i nostri divertimenti come troppo futili e infantili. Ma adesso, forse per la prima volta, prendeva piacere a un nostro gioco. Le bolle di sapone le arrivavano fin sul viso e lei, col respiro, le faceva scoppiare e sorrideva. Una bolla giunse fino alle sue labbra e restò intatta. Ci chinammo su di lei. Cosimo lasciò cadere la ciotola. Era morta. Ai lutti succedono presto o tardi eventi lieti. È legge della vita. Dopo un anno dalla morte di nostra madre, mi fidanzai con una fanciulla della nobiltà dei dintorni. Ci volle del bello e del buono per convincere la mia promessa sposa all'idea che sarebbe venuta a stare ombrosa. Aveva paura di mio fratello. Il pensiero che ci fosse un uomo che si muoveva tra le foglie, che spiava ogni mossa dalle finestre, che appariva quando meno ce lo si aspettava, la riempiva di terrore. Anche perché non aveva mai visto Cosimo e l'immaginava come una specie di indiano. Per toglierle dalla testa questa paura, indissi un pranzo all'aperto, sotto gli alberi, cui anche Cosimo era invitato. Cosimo mangiava sopra di noi, su di un faggio, coi piatti su di una mensoletta, e devo dire che sebbene per i pasti in società fosse fuori d'esercizio, si comportò molto bene. La mia fidanzata si tranquillizzò un poco, rendendosi conto che, a parte lo star sugli alberi, era un uomo in tutto uguale agli altri. Ma le restò un'invincibile diffidenza. Anche quando, sposatici, ci stabilimmo insieme nella villa d'Ombrosa, sfuggiva il più possibile non solo la conversazione, ma anche la vista del cognato, sebbene lui, poverino, ogni tanto le portasse dei mazzi di fiori o delle pelli pregiate. Quando incominciarono a nascerci i figli e poi a crescere, si mise in testa che la vicinanza dello zio potesse avere una cattiva influenza sulla loro educazione. Non fu contenta finché non facemmo riattare il castello nel nostro vecchio feudo di Rondò, da tempo disabitato, e prendemmo a stare più lassù che a Ombrosa, perché i bambini non avessero cattivi esempi. Eppure Cosimo cominciava ad accorgersi del tempo che passava. E il segno era il bassotto ottimo Massimo, che stava diventando vecchio e non aveva più voglia di unirsi alle mute dei segugi dietro alle volpi, né tentava più assurdi amori con cagne alane o mastine. Era sempre accucciato, come se per la pochissima distanza che separava la sua pancia da terra quando era in piedi non valesse la pena di tenersi ritto. E lì, disteso quanto era lungo, dalla coda al muso, ai piedi dell'albero su cui era Cosimo, alzava uno sguardo stanco verso il padrone e scodinzolava appena. Cosimo si faceva scontento. Il senso del trascorrere del tempo gli comunicava una specie di insoddisfazione della sua vita, del su e giù sempre tra quei quattro stecchi. E nulla gli dava più la contentezza piena, né la caccia, nei fugaci amori, nei libri. Non sapeva neanche lui cosa voleva. Preso dalle sue furie, s'arrampicava rapidissimo sulle vette più tenere e fragili, come cercasse altri alberi che crescessero sulla cima degli alberi, per salire anche su quelli. Un giorno ottimo Massimo era inquieto. Pareva fiutasse un vento di primavera. Alzava il muso, annusava, si ributtava giù. Due o tre volte s'alzò, si mosse intorno, si risdraiò. Tutto un tratto prese la corsa, trotterellava piano ormai e ogni tanto si fermava a riprendere fiato. Cosimo di sui rami lo seguì. Ottimo Massimo prese la via del bosco. Pareva che avesse in mente una direzione molto precisa, perché anche se ogni tanto si fermava, pisciacchiava, si riposava a lingua fuori guardando il padrone, presto si scrollava e riprendeva la strada senza incertezze. Stava così andando in paraggi poco frequentati da Cosimo, anzi quasi sconosciuti, perché era verso la bandita di caccia del duca Tolemaico. Il duca Tolemaico era vecchio cadente e certo non andava a caccia da chissà quanto tempo. Ma nella sua bandita nessun bracconiere poteva metter piede, perché i guardie caccia erano molti e sempre vigili. E Cosimo, che ci aveva avuto già da dire, preferiva tenersi al largo. Ora Ottimo Massimo e Cosimo s'addentravano nella bandita del principe Tolemaico. Ma né l'uno né l'altro pensavano a snidarne la pregiata selvaggina. Il bassotto trotterellava seguendo un suo segreto richiamo e il barone era preso da un'impaziente curiosità di scoprire dove mai andava il cane. Così il bassotto giunse a un punto in cui la foresta finiva e c'era un prato. Due leoni di pietra seduti su pilastri reggevano uno stemma. Di qua forse doveva cominciare un parco, un giardino, una parte più privata della tenuta del Tolemaico. Ma non c'erano che quei due leoni di pietra e al di là il prato, un prato immenso, di corta erba verde, di cui solo in lontananza si vedeva il termine, uno sfondo di querce nere. Il cielo dietro aveva una lieve patina di nuvole, non un uccello vi cantava. Per Cosimo, quel prato era una vista che riempiva di sgomento. Vissuto sempre nel folto della vegetazione d'ombrosa, sicuro di poter raggiungere ogni luogo attraverso le sue vie, al barone bastava aver davanti una distesa sgombra, impercorribile, nuda sotto il cielo, per provare un senso di vertigine. Ottimo Massimo si slanciò nel prato e, come fosse ritornato giovane, correva a gran carriera. Dal frassino dove era appollaiato, Cosimo prese a fischiare, a chiamarlo: «Qui! Torna qui, Ottimo Massimo, dove vai?» Ma il cane non gli ubbidiva, non si voltava nemmeno. Correva, correva per il prato, finché non si vide che una virgola lontana, la sua coda. E anche quella sparì. Cosimo sul frassino si torceva le mani. A fughe e ad assenza del bassotto era pure abituato, ma ora, Ottimo Massimo, spariva in questo prato invalicabile e la sua fuga diventava tutt'uno con l'angoscia provata poc'anzi e la caricava ad una indeterminata attesa, ad un aspettarsi qualcosa di là di quel prato. Stava mulinando questi pensieri quando sentì dei passi sotto il frassino. Vide un guardiacaccia che passava mani in tasca fischiando. A dire il vero aveva un'aria assai sbracata e distratta per essere di quei terribili guardiacaccia della tenuta. Eppure le insegne della divisa erano quelle del corpo ducale e Cosimo si appiattì contro il tronco. Poi il pensiero del cane ebbe il sopravvento. Apostrofò il guardiacaccia. «Ehi voi, sergente! Avete mica visto un can bassotto?» Il guardiacaccia alzò il viso. «Ah, siete voi! Il cacciatore che vola col cane che striscia! No, non l'ho visto il bassotto! Cosa avete preso di bello stamane?» Cosimo aveva riconosciuto uno dei più zelanti suoi avversari e disse: «Ma che, m'è scappato il cane e m'è toccato di rincorrerlo fin qui! Ho il fucile scarico!» Il guardiacaccia rise. «Lo carichi pure e spari finché ne ha voglia, tanto ormai!» «Ormai cosa?» «Ormai che il duca è morto! Chi vuole che se ne interessi più della bandita?» «Ah, così, è morto, non sapevo!» «È morto e seppellito da 3 mesi, e c'è una lite tra gli eredi di primo e di secondo letto, e la vedovella nuova.» «Aveva una terza moglie?» «Sposata quando lui aveva 80 anni, un anno prima di morire. Lei è una ragazza di 21 giù di lì. Vi dico io che pazzie, una sposa che non gli è stata insieme neanche un giorno, e solo adesso comincia a visitare i suoi possessi, e non le piacciono.» «Come non le piacciono?» «Ma... si installa in un palazzo o in un feudo, ci arriva con tutta la sua corte perché ha sempre uno stuolo di cascamorti dietro e dopo 3 giorni trova tutto brutto, tutto triste e riparte. Allora saltano fuori gli altri eredi, si buttano su quel possesso, vantano diritti e lei: «Ah sì? E prendetevelo!» «Adesso è arrivata qui nel padiglione di caccia, ma quanto ci resterà? Io dico poco.» «E dov'è il padiglione di caccia?» «Laggiù, oltre il prato, oltre le querce.» «E il mio cane allora è andato là?» «Sarà andato in cerca d'ossi. Mi perdoni, ma mi dà l'idea che Vossignoria lo tenga un po' stecchetto.» E scoppiò a ridere. Cosimo non rispose. Guardava il prato invalicabile. Aspettava che il bassotto tornasse. Non tornò per tutto il giorno. L'indomani Cosimo era di nuovo sul frassino, a contemplare il prato, come se dello sgomento che gli dava non potesse più fare a meno. Riapparì il bassotto verso sera, un puntino nel prato, che solo l'occhio acuto di Cosimo riusciva a percepire, e venne avanti sempre più visibile. «Ottimo Massimo, vieni qui, dove sei stato?» Il cane s'era fermato, scodinzolava, guardava il padrone, abbaiò. Pareva invitarlo a venire, a seguirlo, ma si rendeva conto della distanza che egli non poteva valicare. Si voltava indietro, faceva passi incerti, ed ecco si voltava. «Ottimo Massimo, vieni qui! Ottimo Massimo!» Ma il bossotto correva via, spariva nella lontananza del prato. Più tardi passarono due guardiacaccia. «Sempre lì che aspetta il cane, signoria! Ma se l'ho visto al padiglione, in buone mani!» «Come?» «Ma sì, la marchesa, ossia la duchessa vedova. Noi la chiamiamo marchesa perché era marchesina da ragazza. Gli faceva tante feste come l'avesse sempre avuto. È un cane da pasta asciutta quello, mi lasci dire, signoria. Ora ha trovato da star nel morbido e ci resta». E i due sgherri s'allontanavano ghignando. Ottimo Massimo non tornava più. Cosimo tutti i giorni era sul frassino a guardare il prato, come se in esso potesse leggere qualcosa che da tempo lo struggeva dentro. L'idea stessa della lontananza, dell'incolmabilità, dell'attesa che può prolungarsi oltre la vita. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino, realizzazione tecnica di Carlo Cursi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.